Ad alta voce. Paolo Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. A questo punto della nostra storia, noi non possiamo far a meno di non fermarci qualche poco, come il viandante, stracco e tristo da un lungo camminare per un terreno arido e salvatico, si trattiene e perde un po' di tempo all'ombra di un bell'albero sull'erba vicino a una fonte d'acqua viva. Ci siamo abbattuti in un personaggio, il nome e la memoria del quale, affacciandosi in qualunque tempo alla mente, la ricreano con una placida commozione di riverenza e con un senso giocondo di simpatia. Ora, quanto più dopo tante immagini di dolore, dopo la contemplazione d'una molteplice e fastidiosa perversità, intorno a questo personaggio bisogna assolutamente che noi spendiamo quattro parole. Chi non si curasse di sentirle e avesse però voglia d'andare avanti nella storia, salti addirittura al capitolo seguente. Federigo Borromeo, nato nel 1564, fu degli uomini rari in qualunque tempo che abbiano impiegato un ingegno egregio, tutti i mezzi d'una grande opulenza, tutti i vantaggi d'una condizione privilegiata, un intento continuo nella ricerca e nell'esercizio del meglio. La sua vita è come un ruscello che, scaturito limpido dalla roccia, senza ristagnare né intorbidarsi mai, in un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume. Tra gli agi e le pompe badò fin dalla puerizia a quelle parole d'annegazione e d'ubiltà, a quelle massime intorno alla vanità dei piaceri, all'ingiustizia dell'orgoglio, alla vera dignità e a veri beni che, sentite o non sentite nei cuori, vengono trasmesse da una generazione all'altra nel più elementare insegnamento della religione. Badò, dico, a quelle parole, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le trovò vere, vide che non potevano dunque essere vere altre parole e altre massime opposte, che pure si trasmettono di generazione in generazione, con la stessa sicurezza e talora dalle stesse labbra, e propose di prendere per norma dell'azione e dei pensieri quelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è già destinata a essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno rende racconto, cominciò da fanciullo a pensare come potesse renderla sua utile e santa. Nel 1580 manifestò la risoluzione di dedicarsi al ministero ecclesiastico e ne prese l'abito dalle mani di quel suo cugino Carlo, che una fama già fin d'allora antica e universale predicava santo. Entrò poco dopo nel collegio fondato da questo in Pavia e che porta ancora il nome del loro casato, e lì, applicandosi assiduamente alle occupazioni che trovò prescritte, due altre ne assunse di sua volontà, e furono di insegnare la dottrina cristiana ai più rozzi e derelitti del popolo e di visitare, servire, consolare e soccorrere gli infermi. Si valse dell'autorità che tutto gli conciliava in quel luogo per attirare i suoi compagni a secondarlo in tali opere e in ogni cosa onesta e profittevole esercitò come un primato d'esempio, un primato che le sue doti personali sarebbero forse bastate a procacciargli, se fosse anche stato l'infimo per condizione. E i vantaggi di un altro genere che la sua gli avrebbe potuto procurare non solo non li ricercò, ma mise ogni studio a schivarli. Volle una tavola piuttosto povera che frugale. Usò un vestiario piuttosto povero che semplice, a conformità di questo tutto il tenore della vita e il contegno. Né credette mai di doverlo mutare, per quanto alcuni congiunti gridassero e si lamentassero che avvilisse così la dignità della casa. Un'altra guerra ebbe a sostenere con gli istitutori, i quali furtivamente, come per sorpresa, cercavano di mettergli davanti, addosso, intorno, qualche suppellettile più signorile, qualcosa che lo facesse distinguere dagli altri e figurare come il principe del luogo, o credessero di farsi alla lunga ben volere con ciò, o fossero mossi da quella svisceratezza servile che si invanisce e si ricrea nello splendore altrui, o fossero di quei prudenti che s'adombrano delle virtù come dei vizi, predicano sempre che la perfezione sta nel mezzo e il mezzo lo fissan giusto in quel punto dove essi sono arrivati e ci stanno comodi. Federigo, non che lasciarsi vincere da quei tentativi, riprese coloro che li facevano, e ciò tra la pubertà e la giovinezza. Che vivente il cardinal Carlo, maggior di lui di 26 anni, davanti a quella presenza grave e solenne che esprimeva così al vivo la santità e ne rammentava le opere e alla quale, se ce ne fosse stato bisogno, avrebbe aggiunto autorità ogni momento, l'ossequio manifesto e spontaneo dei circostanti, quali e quanti si fossero, Federigo, fanciullo e giovinetto, cercasse di conformarsi al contegno e al pensare d'un tal superiore. Non è certamente da farsene meraviglia, ma è bensì cosa molto notabile che dopo la morte di lui nessuno si sia potuto accorgere che a Federigo, allor di 20 anni, fosse mancata una guida e un censore. La fama crescente del suo ingegno, della sua dottrina e della sua pietà, la parentela e gli impegni di più di un cardinale potente, il credito della sua famiglia, il nome stesso a cui Carlo aveva quasi annessa nelle menti un'idea di santità e di preminenza, tutto ciò che deve, tutto ciò che può condurre gli uomini alle dignità ecclesiastiche, concorreva a pronosticargliele. Ma egli, persuaso in cuore di ciò che nessuno, il quale professa cristianesimo, può negar con la bocca, non ci esser giusta superiorità d'uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio, temeva le dignità e cercava di scansarle, non certamente perché sfuggisse di servire altrui, che poche vite furono spese in questo come la sua, ma perché non si stimava abbastanza degno né capace di così alto e pericoloso servizio. Perciò, venendogli nel 1595 proposto da Clemente VIII l'arcivescovado di Milano, apparve fortemente turbato e ricusò senza esitare. Cedette poi al comando espresso del Papa. Tali dimostrazioni, e chi non lo sa, non sono né difficili né rare, e l'ipocrisia non ha bisogno di un più grande sforzo d'ingegno per farle che la buffoneria per diriderle a buon conto in ogni caso. Ma cessan forse per questo d'essere l'espressione naturale d'un sentimento virtuoso e sapiente? La vita è il paragone delle parole, e le parole che esprimono quel sentimento, fossero anche passate sulle labbra di tutti gli impostori e di tutti i beffardi del mondo, saranno sempre belle quando siano precedute e seguite da una vita di disinteresse e di sacrificio. In Federigo, arcivescovo, apparve uno studio singolare e continuo di non prender per sé delle ricchezze, del tempo, delle cure, di tutto se stesso, insomma, se non quanto fosse strettamente necessario. Diceva, come tutti dicono, che le rendite ecclesiastiche sono patrimonio dei poveri. Come poi intendesse infatti una tal massima, si veda da questo. Volle che si stimasse a quanto poteva ascendere il suo mantenimento e quello della sua servitù, e dettogli che 600 scudi, scudo si chiamava allora quella moneta d'oro che, rimanendo sempre dello stesso peso e titolo, fu poi detta secchino, diede ordine che tanti se ne contasse ogni anno dalla sua casa particolare a quella della mensa, non credendo che a lui ricchissimo fosse lecito vivere di quel patrimonio. Del suo poi era così scarso e sottile misuratore a se stesso che badava di non smettere un vestito prima che fosse logoro affatto, unendo però, come fu notato da scrittori contemporanei, al genio della semplicità quello d'una squisita pulizia, due abitudini notabili, infatti, in quella età sudicia e sfarzosa. Similmente, affinché nulla si disperdesse degli avanzi della sua mensa frugale, gli assegnò a un ospizio di poveri, e uno di questi, per suo ordine, entrava ogni giorno nella sala del pranzo a raccogliere ciò che fosse rimasto, cure che potrebbero forse indur concetto d'una virtù greta, misera, angustiosa, d'una mente impaniata nelle minuzie e incapace di disegni elevati, se non fosse in piedi quella biblioteca ambrosiana che Federigo ideò con sì animosa lautezza ed eresse con tanto dispendio da fondamenti, per fornir la quale di libri e di manoscritti, oltre il dono già raccolti con grande studio e spesa da lui, spedì 8 uomini dei più colti ed esperti che poté avere a farne incetta per l'Italia, per la Francia, per la Spagna, per la Germania, per le Fiandre, nella Grecia, al Libano, a Gerusalemme. Così riuscì a radunarvi circa 30.000 volumi stampati e 14.000 manoscritti. Alla biblioteca unì un collegio di dottori, furono 9 e pensionati da lui finché visse. Dopo, non bastando a quella spesa le entrate ordinarie, furono ristretti a 2. E il loro ufficio era di coltivare vari studi, teologia, storia, lettere, antichità ecclesiastiche, lingue orientali, con l'obbligo ad ognuno di pubblicar qualche lavoro sulla materia assegnatagli. V'unì un collegio da lui detto trilingue per lo studio delle lingue greca, latina e italiana, un collegio d'alunni che venissero istruiti in quelle facoltà e lingue per insegnarle un giorno. V'unì una stamperia di lingue orientali, dell'ebraica, cioè della caldea, dell'arabica, della persiana, dell'armena. Una galleria di quadri, una di statue e una scuola delle 3 principali arti del disegno. Per queste poté trovare professori già formati. Per il rimanente abbiamo visto che da fare gli avesse dato la raccolta dei libri e dei manoscritti, certo più difficile a trovarsi, dovevano essere i tipi di quelle lingue allora molto men coltivate in Europa che al presente, più ancora dei tipi gli uomini. Basterei dire che di 9 dottori, 8 ne prese tra i giovani alunni del seminario E da questo si può argomentare che giudizio facesse degli studi consumati e delle reputazioni fatte di quel tempo. Giudizio conforme a quello che par che ne abbia portato la posterità, col mettere gli uni e le altre in dimenticanza. Nelle regole che stabilì per l'uso e per il governo della biblioteca si vede un intento dell'utilità perpetua, non solamente bello in sé, ma in molte parti sapiente e gentile, molto al di là delle idee e delle abitudini comuni di quel tempo. Prescrisse al bibliotecario che mantenesse commercio con gli uomini più dotti d'Europa, per aver da loro notizie dello stato delle scienze e avviso dei libri migliori che venissero fuori in ogni genere e farne acquisto. Gli prescrisse di indicare agli studiosi i libri che non conoscessero e potessero loro essere utili. Ordinò che a tutti, fossero cittadini o forestieri, si desse comodità e tempo di servirsene secondo il bisogno. Una tale intenzione deve ora parere ad ognuno troppo naturale e immedesimata con la fondazione d'una biblioteca. Allora non era così. E in una storia dell'Ambrosiana, scritta col costrutto e con le eleganze comuni del secolo, da un Pierpaolo Bosca, che vi fu bibliotecario dopo la morte di Federigo, vi è notato espressamente come cosa singolare che in questa libreria eretta da un privato, quasi tutta a sue spese, i libri fossero esposti alla vista del pubblico, dati a chiunque li chiedesse e datogli anche da sedere carta, penna e calamaio per prendere gli appunti che gli potessero bisognare. Mentre in qualche altra insigne biblioteca pubblica d'Italia i libri non erano nemmeno visibili, ma chiusi in armadi, donde non si levavano se non per gentilezza dei bibliotecari, quando si sentivano di farli vedere un momento. Di dare ai concorrenti il comodo di studiare non se ne aveva neppur l'idea. Di modo che arricchir tali biblioteche era un sottrar libri all'uso comune, una di quelle coltivazioni, come ce n'era e ce n'è tuttavia molte, che steriliscono il campo. Non domandate quali siano stati gli effetti di questa fondazione del Borromeo sulla cultura pubblica. Sarebbe facile dimostrare in due fasi, al modo che si dimostra che furono miracolosi o che non furono niente, cercare e spiegare fino a un certo segno quali siano stati veramente sarebbe cosa di molta fatica, di poco costrutto e fuor di tempo. Ma pensate che generoso, che giudizioso, che benevolo, che perseverante amatore del miglioramento umano deve essere colui che volle una tal cosa, la volle in quella maniera e l'eseguì in mezzo a quell'ignorantaggine, a quell'inerzia, a quell'antipatia generale per ogni applicazione studiosa e per conseguenza in mezzo ai «Cosa importa? E c'era altro da pensare? E che bella invenzione! E mancava anche questa!» e simili. Che saranno certissimamente stati più che gli scudi spesi da lui in quell'impresa, i quali furono 105.000, la più parte dei suoi. Per chiamare un tal uomo sommamente benefico e liberale, può parer che non ci sia bisogno di saper se ne abbia spesi molt'altri in soccorso immediato dei bisognosi. E ci sono forse ancora di quelli che pensano che le spese di quel genere, che sto per dire tutte le spese, siano la migliore e la più utile elemosina. Ma Federigo teneva l'elemosina, propriamente detta, per un dovere principalissimo, e qui, come del resto, i suoi fatti furono consentanei all'opinione. La sua vita fu un continuo profondere ai poveri, E a proposito di quella stessa carestia di cui ha già parlato la nostra storia, avremo tra poco occasione di riferire alcuni tratti dai quali si vedrà che sapienza e che gentilezza abbia saputo mettere anche in questa liberalità. De molti esempi singolari che d'una tale sua virtù hanno notati i suoi biografi, ne citeremo qui uno solo. Avendo saputo che un nobile usava artifici e angherie per far monaca una sua figlia, la quale desiderava piuttosto di maritarsi, fece venire il padre e, cavatogli di bocca che il vero motivo di quella vessazione era il non avere 4.000 scudi che secondo lui sarebbero stati necessari a maritar la figlia convenevolmente, Federigo la dotò di 4.000 scudi. Forse a taluno parrà questa una larghezza eccessiva, non ben ponderata, troppo condiscendente agli stolti capricci di un superbo, e che 4.000 scudi potevano esser meglio impiegati in cent'altre maniere. A questo non abbiamo nulla da rispondere, se non che sarebbe da desiderarsi che si vedessero spesso eccessi d'una virtù così libera dalle opinioni dominanti, ogni tempo alle sue, così indipendente dalla tendenza generale, come in questo caso fu quella che mosse un uomo a dar 4.000 scudi perché una giovine non fosse fatta monaca. La carità inesausta di quest'uomo, non meno che nel dare, spiccava in tutto il suo contegno. Di facile abbordo con tutti, credeva di dovere, specialmente a quelli che si chiamano di bassa condizione, un viso gioviale, una cortesia affettuosa, tanto più quanto ne trova meno nel mondo. E qui pure ebbe a combattere co galantuomini del ne quid nimis, i quali in ogni cosa avrebbero voluto farlo star nei limiti, cioè nei loro limiti. Uno di costoro, una volta che nella visita ad un paese alpestre e salvatico, Federigo istruiva certi poveri fanciulli e tra l'interrogare e l'insegnare gli andava amorevolmente accarezzando, l'avvertì che usasse più riguardo nel far tante carezze a quei ragazzi perché erano troppo sudici e stomacosi, come se supponesse il buon uomo che Federigo non avesse senso abbastanza per fare una tale scoperta o non abbastanza perspicacia per trovar da sé quel ripiego così fino. Tale è, in certe condizioni di tempi e di cose, la sventura degli uomini costituiti in certe dignità, che mentre così di rado si trova chi gli avvisi dei loro mancamenti, non manca poi gente coraggiosa a riprenderli del loro far bene. Ma il buon vescovo, non senza un certo risentimento, rispose: «Son mie anime, e forse non vedranno mai più la mia faccia». «E non volete che gli abbracci?» Ben raro, però, era il risentimento in lui, ammirato per la suavità dei suoi modi, per una pacatezza imperturbabile che si sarebbe attribuita a una felicità straordinaria di temperamento, ed era l'effetto di una disciplina costante sopra un'indole viva e risentita. Se qualche volta si mostrò severo, anzi brusco, fu copastori suoi subordinati che scoprisse rei d'avarizia o di negligenza o d'altre tacce specialmente opposte allo spirito del loro nobile ministero. Per tutto ciò che potesse toccare o il suo interesse o la sua gloria temporale, non dava mai segno di gioia né di rammarico, né d'ardore né d'agitazione. Mirabile se quei moti non si destavano nell'animo suo, più mirabile se vi si destavano. Non solo da molti conclavi ai quali assistette riportò il concetto di non aver mai aspirato a quel posto così desiderabile all'ambizione e così terribile alla pietà. Ma una volta che un collega, il quale contava molto, venne a offrirgli il suo voto e quelli della sua fazione, brutta parola, ma era quella che usavano, Federico rifiutò una tal proposta in modo che quello depose il pensiero e si rivolse altrove. Questa stessa modestia, questa avversione al predominare, apparivano ugualmente nelle occasioni più comuni della vita. Attento e infaticabile a disporre e a governare, dove riteneva che fosse suo dovere il farlo, sfugge sempre di impicciarsi negli affari altrui, anzi si scusava a tutto potere dall'ingerirvisi ricercato. Discrezione e ritegno non comune, come ognuno sa, negli uomini zelatori del bene, quale era Federigo. Se volessimo lasciarsi andare al piacere di raccogliere i tratti notabili del suo carattere, ne risulterebbe certamente un complesso singolare di meriti in apparenza opposti e certo difficili a trovarsi insieme. Però non ometteremo di notare un'altra singolarità di quella bella vita, che piena come fu d'attività, di governo, di funzioni, di insegnamento, d'udienze, di visite diocesane, di viaggi, di contrasti, non solo lo studio c'ebbe una parte, ma ce n'ebbe tanta che per un letterato di professione sarebbe bastato. E infatti, con tant'altri diversi titoli di lode, Federigo ebbe anche, presso i suoi contemporanei, quello d'uomo dotto. Non dobbiamo però dissimulare che tenne con ferma persuasione e sostenne in pratica con lunga costanza opinioni che al giorno d'oggi parrebbero a ognuno piuttosto strane che malfondate. Dico anche a coloro che avrebbero una gran voglia di trovarle giuste. Chi lo volesse difendere in questo, ci sarebbe quella scusa così corrente e ricevuta che erano errori del suo tempo, piuttosto che suoi, scusa che per certe cose e quando risulti dall'esame particolare dei fatti può aver qualche valore o anche molto, ma che applicata così nuda alla cieca, come si fa d'ordinario, non significa proprio nulla. E perciò, non volendo risolvere con formule semplici questioni complicate, né allungar troppo un episodio, tralasceremo anche di esporle, bastandoci d'aver accennato così alla sfuggita che d'un uomo così ammirabile in complesso noi non pretendiamo che ogni cosa lo fosse ugualmente, perché non paia che abbiamo voluto scrivere un'orazione funebre. Né è certamente fare ingiuria ai nostri lettori il supporre che qualcuno di loro domandi se di tanto ingegno e di tanto studio quest'uomo abbia lasciato qualche monumento. Se n'ha lasciati. Circa 100 sono l'opere che rimangono di lui, tra grandi e piccole, tra latine e italiane, tra stampate e manoscritte, che si serbano nella biblioteca da lui fondata, trattati di morale, orazioni, dissertazioni di storia, d'antichità sacra e profana, di letteratura, d'arti ed altro. E come mai, dirà codesto lettore, tante opere sono dimenticate, o almeno così poco conosciute, così poco ricercate? Come mai, con tanto ingegno, con tanto studio, con tanta pratica degli uomini e delle cose, con tanto meditare, con tanta passione per il buono e per il bello, con tanto candor d'animo, con tant'altre di quelle qualità che fanno il grande scrittore, questo, in 100 opere, non ne ha lasciata neppur una di quelle che sono reputate insigni anche da chi non le approva in tutto e conosciute di titolo anche da chi non le legge? Come mai tutte insieme non sono bastate a procurare almeno col numero al suo nome una fama letteraria presso nei posteri? La domanda è ragionevole senza dubbio e la questione molto interessante, perché le ragioni di questo fenomeno si troverebbero con osservar molti fatti generali e trovate condurrebbero alla spiegazione di più altri fenomeni simili. Ma sarebbero molte prolisse e poi, se non v'andassero a genio, se vi facessero arricciare il naso, sicché sarà meglio che riprendiamo il filo della storia e che invece di cicalar più a lungo intorno a quest'uomo, andiamo a vederlo in azione con la guida del nostro autore. Paolo Poli ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it, per il podcast radio3.rai.it.